9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 12 febbraio da Oscar Giannino e oggi ci occupiamo del vertice europeo che si è tenuto ieri. All'ordine del giorno il problema fondamentale: come, se, quando, da soli, con chi aiutare come Unione Europea la Grecia, e dopo la Grecia, che da qualche settimana per le prospettive del suo debito sovrano, per i suoi trucchi contabili, ha iniziato ad attirare l'attenzione delle scommesse di tutta la parte più volatile del mercato sui debiti pubblici un po' più a rischio all'interno dell'Unione Europea. E quindi in poche settimane, in realtà guardando i dati del mercato, da un giorno preciso, dal 12 di gennaio, quando si chiudono le posizioni corte, cosiddette, di moltissimi fondi di investimento speculativi sul dollaro, ecco, da quel giorno sul mercato diventa problema fondamentale scommettere su quale sarebbe stato il primo debito pubblico più debole dei paesi membri dell'euroarea a, diciamo così, non reggere più. E nell'ultimo mese, in 4 settimane, improvvisamente scopriamo nell'ordine: primo, che appartenere all'euro non era la garanzia da sola per evitare crisi finanziarie; secondo, che non conta solo il debito pubblico accumulato, perché conta nello sconto che il mercato fa della debolezza di ogni sistema paese la somma di debiti pubblici, ma anche di debiti privati e sostenibilità del debito complessivo di un paese. E scopriamo che in quella graduatoria l'Italia, che ha il più alto debito pubblico, in realtà poi sta messa molto meglio dell'altra, perché c'è una componente di debito privato molto più bassa di quanto non avvenga poi in paesi invece come la Spagna, come il Portogallo, ma anche come la Francia e la Germania. Detto tutto questo, in 4 settimane l'Unione Europea inizia a essere attraversata da un problema serio. Perché? Perché vi leggo cosa dice l'articolo 103 al paragrafo 1 del trattato vigente. Ve lo leggo testualmente: la comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, quindi dagli stati membri, dagli enti regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi stato membro. Poi continua: gli stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro stato membro. Cioè, che cosa dice a questo articolo 103 il trattato europeo? Dice due cose. Primo, che l'Unione Europea non risponde a quello che fanno gli stati, quindi se gli stati fanno debiti, hanno un eccesso di debito, i debiti sono rimasti nazionali, non sono stati conferiti in una gestione comune, la comunità non ne risponde. E poi stabilisce un altro, secondo, pesante principio, e cioè che gli stati membri non possono, non devono anzi intervenire. Qui c'è una interpretazione, qui c'è scritto che non sono responsabili. Naturalmente, a seconda di come lo leggete, può essere: non possono intervenire a sostegno di qualcuno, non devono intervenire a sostegno di qualcuno, oppure se richiesti di intervento a sostegno, in questo caso della Grecia, che ha visto abbassare le sue prospettive di solidità del debito, possono invocare l'articolo e dire non ce ne importa nulla. Conclusione: 4 settimane di grande caos. Io mi limito a dire, perché voglio fare una sintesi breve per far parlare gli ospiti, che chi avesse letto ieri i maggiori giornali europei si trovava con un ventaglio di posizioni, come nei giorni precedenti, il più vario e diverso, per dirne una. Per esempio la Frankfurter Allgemeine, forte giornale tedesco, forte giornale di riferimento delle classi dominanti, delle classi dirigenti, scusate, tedesche e della business community, aveva un fortissimo editoriale che chiedeva al governo tedesco, che rapidamente è diventato come paese leader il governo dalla cui decisione li aiutiamo, non li aiutiamo, come li aiutiamo in maniera bilaterale o con strumenti comuni dell'Unione. Ebbene, la Frankfurter Allgemeine ieri chiedeva al governo Merkel, un forte editoriale, di non aiutare la Grecia, perché altrimenti la disillusione dei tedeschi nei confronti dell'euro sarebbe cresciuta a livelli poco consigliabili per il governo. Che ne so, Martin Wolf, prestigiosissima firma del Financial Times, diceva che il problema fondamentale non è tanto la questione di come e se i tedeschi dall'altro della loro generosità dovessero aiutare i greci, bensì il fatto che i tedeschi si devono una volta per tutte arrendere, e se vogliono che l'euro e l'Europa resti, allora devono concentrarsi sul fatto di essere locomotiva, e quindi devono fare più domanda interna per consentire agli altri paesi dell'Unione Europea di esportare in Germania. che, come vedete, è una prospettiva completamente diversa. Significa assumere l'idea che i tedeschi hanno anche degli doveri nei confronti degli altri, non solo alzare il ditino dicendo voi siete i più cattivi. Niall Ferguson, grande storico economico britannico, prima dell'impero britannico, poi Descent on Money è il suo ultimo libro, al contrario, molto pessimisticamente diceva che il contagio greco si sarebbe trasmesso molto presto agli Stati Uniti. Sul Sole 24 Ore ieri Otmar Issing, durissimo falco che per anni nella prima gestione della Banca Centrale Europea, affidata a un banchiere centrale olandese ma in realtà che rappresentava la Germania, è stato il capo economista della BCE, il falco più duro e più affidabile dal punto di vista dell'ortodossia monetaria. Otmar Issing sosteneva a sua volta in un intervento una tesi netta: salvare la Grecia provocherà un effetto domino. Insomma, diciamo che siamo arrivati al vertice di ieri in una condizione in cui, dal punto di vista legale, dal punto di vista degli strumenti da mettere in campo e soprattutto dal punto di vista dell'opportunità e della convenienza a impedire che i paesi a somma di debito pubblica e privata diventassero la rottura dell'euro, cioè la crisi dell'euro, quella crisi che Marty Feldstein, che i grandi economisti di Chicago, mia scuola, avevano preconizzato tanti anni fa, dicendo all'Unione Europea: se voi fate una moneta unica ma non unite i mercati sottostanti, vi renderete conto che è un'illusione, perché alla prima grande crisi un'unica moneta con un unico tasso per condizioni di costo sottostanti così diversi provocherà degli shock, delle tensioni e l'euro entrerà in crisi. Allora la domanda era: bisogna evitarla sta crisi aiutando i deboli oppure no? Ecco, questa è la domanda all'ordine del giorno del meeting europeo di ieri. Io vi dirò, ho letto i comunicati, ho letto tutti gli articoli, c'è un impegno, per così dire, a dare una mano alla Grecia quando, come se si riterrà, perché nei particolari non si entra. Quindi io, quali siano le risposte a questa domanda, non l'ho capito. Io vi invito a casa a non considerare questo tema, come fanno anche i media oggi italiani, che lo confinano insomma nelle pagine interne, a non considerare un tema lontano dalla vostra vita. Ricordatevi che voi il tasso di interesse della casa lo pagate perché c'è un tasso di interesse comune e lo decide la BCE. Tutto quello che fate nella vita è legato a un tasso di sconto che deriva dal fatto che siamo o non siamo nell'euro. I posti di lavoro che state perdendo, non dico guadagnando, li state perdendo perché una delle questioni della competitività dei beni che producete o non producete più, se siete in cassa integrazione, lo dovete anche al tasso di cambio dell'euro. Il tasso di cambio dell'euro che in due settimane ha perso il 10%, mentre prima si stava molto rafforzando. L'euro è la cosa fondamentale nella vita di noi tutti, e allora tutti dobbiamo chiederci: ma ha senso un'Europa che non sa cosa fare neanche di fronte a un rischio della sua stessa esistenza? Io non lo so se ci serve davvero un'Europa così. Lo chiedo ai nostri ospiti che vi presento. Innanzitutto Adriana Cerretelli, che è straordinaria, lo dico sempre, la miglior giornalista per seguire queste questioni dell'Europa, lo fa per le Sole 24 Ore. Buongiorno Adriana. Buongiorno. Francesco Forte, non ve lo devo presentare, comunque professore ordinario di Scienza e Finanza alla Sapienza di Roma. Buongiorno professor Forte. Buongiorno. E Antonio Ferrari, giornalista del Corriere della Sera, che utilizziamo qui per aver scritto molti editoriali e soprattutto perché sulla Grecia ci fa un approfondimento. Adriana Cerretelli, l'impegno di ieri del summit in realtà qual è? Allora, l'impegno di ieri del summit è una scommessa, cioè è una speranza e una scommessa, nel senso che da una parte, al di là delle grandi aspettative che si erano in qualche modo create sui mercati, incoraggiate probabilmente anche per ragioni speculative, l'Europa non avrebbe comunque potuto presentare un pacchetto di aiuti preciso, perché l'esperienza insegna che in genere queste cose, quando si fanno, le si fanno sul momento senza annunciarle preventivamente. Detto questo, la speranza implicita degli Stati membri è quella di dire la credibilità dell'impegno greco a risanarsi in 3 anni è tale, e i governi a quanto pare sono veramente convinti che Papandreou farà tutto quello che sarà necessario per, e allora l'impegno della Grecia sarà tale che i mercati si daranno una calmata. L'idea è quella che alla verifica prossima di marzo ci si potrà insomma rendere conto che in effetti questi stanno facendo sul serio, sotto una strettissima sorveglianza, eccetera, eccetera, e che quindi il peggio sarà scongiurato senza esporsi con pacchetti di aiuti che potrebbero diventare una provocazione per i mercati, perché allora, diciamo, assalito un paese ci sarebbe l'effetto domino e si proverebbe con tutti gli altri. Ora, è una scommessa assolutamente rischiosa e al tempo stesso bisogna vedere quanto credibile per i mercati. La prima reazione dei mercati non è stata certo positiva. D'altra parte l'Europa in questo momento non ha le idee chiare su che cosa fare effettivamente, su che tipo di intervento, perché c'è chi dice sarebbe meglio ricorrere al fondo monetario e c'è chi lo vede invece come il fumo negli occhi, un intervento del genere. Perché un intervento del fondo monetario viene visto come una sorta di, virgolette, commissariamento dell'indipendenza della banca centrale, di intervento di una pressione esterna. Ma il mio personale parere è che, vabbè, dico una banalità, una crisi così non l'avevamo mai vista. Beh, in effetti. Però, ripeto, c'era chi aveva detto state attenti perché quando arriva, se non fate un'unificazione dei mercati e della politica, quindi poi significa questo, questo succederà. Erano stati derisi i maestri che ho citato prima, dicevano ma questi americani che sono invidiosi dell'euro, lo temono. Poi di fatto eccoci qua. Poi di fatto così è. E poi comunque c'è il fatto che il nodo viene al pettine, quello che dicevi prima, nel senso che non si può immaginare di fare un'unione monetaria senza pilastro economico, senza diciamo un'Europa che resta dietro, non c'è niente da fare, bisogna avere il coraggio di andare oltre. Il problema è che in questo momento, diciamo, se la Germania si è svegliata con la solidarietà insieme alla Francia perché si è resa conto che rischiava essa stessa. È caduta la linea, temo un secondo, mentre richiamiamo Adriana passiamo un secondo ad approfondire la questione greca con Antonio Ferrari. E lì la questione è che arriva un governo socialista che vince le elezioni, Papandreou, figlio di generazioni, eccetera, eccetera. Non c'era nella campagna elettorale, sì, certo, c'erano gli impegni a una finanza pubblica che insomma bisognava controllare, però non era l'allarme generale come Grecia, malato, terminale, che faceva esplodere a propria volta anche il problema della crisi dei debiti sovrani di mezza Europa, Spagna, Portogallo e poi Irlanda, la lista oramai di quelli in fila se parte questa scommessa dei mercati a chi esce dall'euro è lunga. Noi non ci siamo comunque molto indietro. Poi improvvisamente arriva questa roba, il vincolo esterno, il governo greco deve prendersi impegni a tagli bestiali, la gente scende in piazza, è un governo socialista, come si fa, come non si fa, un misto di orgoglio nazionale, e però realisticamente poi che cosa avviene? Niente, non c'è neanche Antonio Ferrari, stanno cadendo tutte le linee in questo momento e quindi non abbiamo più nessun ospite collegato, non è quindi per la mia tradizione logorrea che sto continuando a parlare. Vi invito a riflettere sul fatto che quando Adriana stava dicendo prima c'è un'altra contraddizione, quella dell'Unione Europea divisa tra chi dice facciamo una cosa, chiediamo al Fondo Monetario Internazionale di sostenere la sostenibilità di paesi come la Grecia o di tutti i membri dell'Unione Monetaria Europea che avessero delle difficoltà con il loro debito, è stato preso come un indice dell'incapacità dell'Europa, addirittura un'onta per l'Europa a seguire questa strada. E vi invito a riflettere che per esempio due grandi nomi tradizionalmente associati a un europeismo attivo nel nostro paese, come quello di Francesco Giavazzi e di Tommaso Padoa-Schioppa, hanno sostenuto esattamente le due tesi opposte su questo argomento, con Giavazzi che diceva l'unica cosa realisticamente è affidarsi al fondo monetario e invece Padoa-Schioppa che diceva no, beh, veramente io confido nel fatto che francesi e tedeschi da questo punto di vista abbiano finalmente capito, non sarà certo questo straordinario piano con mezzi propri dell'Unione Europea, perché si era parlato tra l'altro dell'emissione di debiti pubblici condivisi, ci sono idee tra cui quelle sostenute dal ministro del tesoro Tremonti per cui questa e non altra sarebbe la migliore occasione per produrre emissioni di debito pubblico europeo come garanzia di un vincolo di politica economica comune, della possibilità di intervenire comunemente. C'è chi ha pensato, Alberto Giovannini, altra intervista che vi segnalo perché era interessante, alla possibilità di un'Unione Europea che oltre a una parte di debito condiviso avesse anche un altro simbolo che a me non piace per niente, cioè quello di nascere con l'idea di dare la prima forza politica per il sostegno ai paesi in difficoltà introducendo una tassa europea. Ecco, io mi sono permesso poi di scrivere un blog sul mio blog, che per chi fosse interessato è Chicago Blog, con l'idea che se l'Europa, per dare un segno di forza di fronte alla debolezza, alla crisi che si apre sulla scommessa dei mercati per la debolezza dei debiti pubblici dei suoi paesi più deboli, che volesse dare un segno di forza attraverso l'introduzione di una tassa, mi sembrerebbe un'Europa candidata a perdere definitivamente praticamente quel po' di sostegno che molto poco, che è rimasto, come sapete, dopo che larga parte del sostegno europeo è stato perso negli anni in cui il processo di ratifica del Trattato di Gento ha portato a molti incidenti pesanti, con referendum persi in diversi paesi, e quindi con l'Europa che ha dovuto poi retrocedere su uno schema di governance che non era quello inizialmente proposto nel trattato più avanzato. Tra l'altro, vi faccio osservare, mentre aspetto che si ripristino le linee, che ieri c'è stato un esordio, per così dire, l'esordio di Van Rompuy, che è questa nuova figura, il presidente dell'Europa che si affianca alla presidenza di turno e al presidente del Consiglio europeo, al presidente della Commissione. Detto questo, si era molto parlato del punto interrogativo rappresentato da questo ex premier belga, se fosse una figura di sufficiente rilievo per gestire occasioni come queste, è stato stroncato dalla stampa internazionale, perché è evidente che si tratta di una figura non all'altezza, un po' pretenziosa. Ieri ha fatto questa sintesi finale mettendoci anche il fiammingo, dimenticandosi, scrive giustamente sul Sole 24 Ore Adriana Cerretelli, che non è più evidentemente un politico belga, ma anche questa cosa non ha funzionato molto. Bisogna chiedersi se altrettanto succederà per Lady Ashton, che è stata nominata Mr. Pesk. Le due grandi novità erano queste, ma la prima già non ha funzionato molto. Ecco, eccoci tornati in studio, nella speranza che i telefoni non ci tradiscono. Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti prima della mia lunga chiacchiera, con Antonio Ferrari. Allora, i greci attualmente cosa capiscono di questo aiuto non aiuto, e come la pensano di un governo che improvvisamente ha dovuto dire: ragazzi, qua bisogna veramente tirare moltissimo la cinghia? Beh, buongiorno a tutti. Prima di tutto, io temevo che il guasto telefonico fosse dovuto alla crisi finanziaria greca, ma pare che non sia così. Dunque, che cosa pensano i greci? I greci sono da una parte così molto preoccupati, soprattutto dei sacrifici che Papandreou, che ha una forte credibilità, viene ritenuto credibile proprio dalla gente, ha vinto le elezioni a ottobre, quindi non potrebbe essere imputato per quello che è accaduto con il governo precedente, però essendo persona credibile è stato credibile anche nell'andare a dire: cari signori, bisogna rimboccarci le maniche. Una parte del paese è molto preoccupata, proprio perché queste misure probabilmente non saranno ancora sufficienti e bisognerà farne di ancora più dure, ma io direi che la grande maggioranza, e questo è un elemento da tenere in considerazione, la grande maggioranza ha questa componente di orgoglio nazionale. La Grecia è un paese che questo orgoglio nazionale ce l'ha, e anche noi italiani nel passato ne abbiamo fatto esperienza, è forse più forte dei sacrifici che si dovranno affrontare. In questo senso, visto che si è parlato di crisi, anche di difesa di quella che è l'orgoglio nazionale, quindi difesa della propria capacità di uscire dalla crisi, che probabilmente da parte della maggioranza ci sarà questo voler raccogliere questo messaggio e quindi dire: siamo d'accordo a rimboccarci le maniche. Però questo non toglie che per esempio il blocco dei salari nell'amministrazione pubblica e il blocco del turnover in un paese che ha parecchie difficoltà, come ben sappiamo, sta creando delle tensioni sociali abbastanza forti. Ma ripeto, l'aspetto orgoglio è un aspetto da tenere fortemente in considerazione, perché qui in questo paese è più forte che in altri, quindi questo potrebbe giocare a favore di questo eh, di questa scommessa che Papandreou e il suo governo hanno lanciato in 3 anni, riportare il debito pubblico, il rapporto tra deficit e PIL attorno al 3%. Quindi, per esempio, l'onta di aver truccato platealmente, proprio in termini statistici, mentendo lo la contabilità nazionale, questo sui giornali greci c'è o non c'è? Cioè, a oggi ancora tutti si interrogano, ma stanno al 13% di deficit sul PIL o al 16,8% quest'anno, per esempio? Beh, i giornali e le televisioni non parlano d'altro, quindi l'onta c'è. E io credo che i responsabili, no, di aver provocato questa onta ne pagheranno sicuramente un prezzo politico. Papandreou si fa forte del fatto di non avere soltanto lanciato la croce contro l'opposizione, oggi opposizione di centrodestra, ma il fatto di dire: signori, qui non è il momento adesso di recriminare, dobbiamo risolvere i problemi. Quindi l'onta c'è, la rabbia per quello che è stato fatto c'è, e dall'altra parte però c'è anche la voglia di uscire, la voglia di recuperare la propria credibilità e la propria faccia. E c'è realisticamente la possibilità di tagli di bilancio così incisivi in una struttura dove tra l'altro i dipendenti pubblici sono tanti e così via? Cosa indica il governo attuale ai suoi elettori? Teoricamente c'è, perché le misure sono misure abbastanza forti, abbastanza drastiche, e forse non saranno ancora sufficienti, ma il problema non possiamo dimenticare che qui c'è un sommerso che addirittura sarebbe tra il 35 e il 40%, quindi fuori da qualsiasi controllo. Ci sono professionisti così che hanno case, ville, macchine potenti eccetera, che dichiarano meno di 10.000, 15.000 euro all'anno. Quindi se ci fosse una seria politica fiscale e se ci fosse la volontà di andare a scoprire una massa di evasori enorme, beh, anche questo credo che aiuterebbe molto. Il governo sta cercando anche di percorrere questa strada, però partire diciamo da zero, da quasi zero, diventa un'impresa quasi titanica. Sentendoti parlare questo... mi veniva in mente che talvolta l'espressione che sentivamo sempre quando andavamo da giovani in barca in giro per la Grecia, dice stessa faccia, stessa razza, si applica, devo dire, all'evasione fiscale con una certa anche forza, diciamo. Ahimè, sono d'accordo. Sì. Allora, professor Forte, guardiamo un secondo. C'è chi dice, come Paolo Savone, guardate, questa Europa fatta solo con la moneta e senza mercati e senza politica ci porta al disastro. E Paolo Savone ha scritto in queste settimane: o l'Europa è in grado di pensare che deve schedersi all'accordo di cambio tra dollaro e yuan. Cioè, cosa significa? Significa che deve iniziare a fare politiche attive, deve comprare dollari sul mercato ogni giorno in quantità crescenti per esercitare un effetto, per flettere un po' i muscoli e far capire agli americani che gli possiamo influire sul cambio. Poi dice, e poi soprattutto deve capire l'Europa che il vero problema oggi per il contributo alla stabilità e alla ripresa della crescita, più che il problema della somma dei debiti dei suoi paesi membri, è quello di riequilibrare i grandi flussi commerciali e di bilancio dei pagamenti. E su questo la Germania, siccome è tutta sull'esportazione ed è tutta su un'esportazione con un effetto di concorrenza rispetto a paesi come l'Italia, ha più da farsi perdonare che solo virtù da predicare e vedersi riconosciute. Questa è la posizione di uno come Savona. Lei cosa pensa? Che bisogna invece adattarsi al tran tran di questo summit di cui non riusciamo noi stessi a capire bene che cosa si tradurrà, e dire vabbè, ma questa è l'unica possibile, vediamo, purché i mercati ci credano e non calino la scura di ulteriori scommesse, oppure invece è convinto che una crisi sarebbe salutare, che l'inipotizzabile, ciò che nel trattato non c'è, cioè che un paese esca, possa far capire agli altri politici dei grandi paesi europei che bisogna fare questo scatto in avanti verso l'unificazione dei mercati e della politica. La sua opinione, professor Forte, qual è? La mia opinione rimane quella con cui sono stato deriso quando si fece l'unione monetaria, in particolare deriso dalle sinistre. Cioè, io dissi, l'unione monetaria è prematura perché dal punto di vista della cultura socialdemocratica o cattolico, o cristiano, sociale prevalente, non c'è abbastanza austerità per farla. Però se la facciamo, ricordiamoci che è un percorso di guerra. Allora tutti a sghignazzare su questo. Il percorso di guerra adesso c'è. E quindi, non a caso, la crisi sta investendo i paesi a guida socialista, socialdemocratica, che non hanno capito che se se volevano fare una politica di sinistra vera, dovevano fare una politica liberale, ma non liberale con le ridistribuzioni e con le imposte progressive e con i vincoli sindacali. E quindi adesso cosa succede? Succede che non si deve aiutare la Grecia, perché la Grecia deve aiutarsi da sé. E quindi i greci devono capire che la tassazione non si fa sui ricchi, ma si fa sulle masse popolari, perché i ricchi al massimo vanno tassati sul consumo nel complesso, ma ciò che manca in Grecia e in tutto il mondo, ahimè, tranne che in Cina, forse in India, è il risparmio. E quindi per conseguenza fa bene l'Europa a dichiarare, anche se il trattato di Maastricht è mal fatto perché lui stesso non ha precisato bene il percorso di guerra, perché c'era una notevole ipocrisia quando lo si creò per avere la moneta unica senza tutte le condizioni che potevano esserci messe in chiaro. Vabbè, la stessa falsificazione dei bilanci è stata ampiamente applicata da tutti i paesi, faceva parte del modo di eludere le regole di Maastricht, adesso ci se ne accorge per la Grecia, ma diciamo che è venuto il punto, il momento di pagare il conto. Naturalmente l'euro scenderà nel suo cambio, qualche paese soffrirà, noi non sappiamo se l'unione monetaria durerà o meno. È una cosa dobbiamo capire, che non esiste nel mondo né la politica di Obama né la politica illusoria che hanno seguito i greci, gli spagnoli e gli inglesi di fare la politica sociale mediante i debiti delle masse, e quindi che è venuto, la moneta non è, la crisi monetaria non è che diciamo il sintomo di questa situazione. Quindi io vedo questo come una specie di ribellione del sistema di mercato al fatto che le istituzioni non lo hanno capito, e anche come una ribellione del sistema di mercato al fatto che si è giocato troppo sulla finanza e non abbastanza sull'economia reale. Non so se questo discorso sembra filosofico. Ma per niente, perché questo è il discorso di chi dice bisogna fare le politiche liberali, che lei dice significa nel mercato del lavoro, cioè nei fondamentali di produttività dei paesi, bisogna, se si sta in una moneta, prendere delle decisioni che lei dice era il percorso di guerra, che io quando indicavo mi dicevano tutti invece non avendolo fatto ecco dove siamo, altro che. Questo è esattamente quello che secondo me è la traduzione concreta, che poi interessa anche alla gente che sta a casa, perché significa un mercato del lavoro fatto con un certo tipo, una produttività con trattative sul salario fatte in un certo modo, perché è così che poi si può convergere verso la parte alta della produttività. Se pensiamo alla strategia di Lisbona annunciata 10 anni fa, l'Europa doveva essere, oggi praticamente si era candidata ad essere l'area più dell'economia più vitale del mondo, c'è un po' da purtroppo ridere, e non solo per la crisi mondiale ha messo alla luce la velleitarismo assoluto di quella cosa. Domanda per Adriana Cerretelli: uno degli altri dossier aperti sul tavolo è quello per la BCE, nel senso che all'ecofin dell'inizio della prossima settimana i ministri decidono chi è il vicepresidente della BCE, c'è il greco Papademos che esce, c'è un portoghese suo candidato, se entra il portoghese vicepresidente della BCE adesso tutti dicono non potrà essere un altro candidato di un paese dell'euro sud, per così dire, a succedere a Trichet, il cui mandato scade a fine 2011. E quindi se passa un portoghese lunedì indicato al Consiglio europeo, che poi a marzo lo ratifica, il signor Draghi col cavolo che diventa il successore di Trichet, perché ci diventa il tedesco Axel Weber. La domanda che ti faccio è: l'impressione vista dall'Italia è che un po' i tedeschi su questo dicano appunto noi non siamo obbligati a salvare nessuno, e contemporaneamente dicano però sulle banche tedesche, quando l'Europa ci è venuta a chiedere come mai noi facciamo così poca chiarezza, in realtà c'erano le elezioni tedesche, lo sappiamo che il motivo era questo, però Axel Weber, banchiere che secondo me non rappresenta la tradizione della Bundesbank, è un accademico messo lì dalla politica, si è messo ad abbaiare sul Financial Times dicendo chiunque osi chiedere alle banche tedesche chiarezza patrimoniale sappia che la Germania non lo consente. E quindi la mia impressione netta è che quello sia il candidato di un'Europa forte, i vecchi candidati della Bundesbank o Pöhl erano un'altra cosa. Io su Weber ho i miei dubbi. Sta di fatto che la candidatura italiana di Mario Draghi è una candidatura che c'è e non c'è. Adesso vedremo che fine fa. Comunque, solo 24 ore, il Corriere della Sera, in piccolo, io stesso sul Messaggero Gruppi Caltagirone, abbiamo chiesto che il governo si pronunciasse. Questa partita, la partita per la BCE, in qualche misura pesa o non pesa anche nell'atteggiamento che la Germania ha avuto in questi giorni? Un atteggiamento che è stato di attestazione sui vincoli formali che impediscono gli aiuti da una parte, e dall'altra fare capire che comunque se la Germania vuole si fa qualche cosa, anche se non si è capito cosa. La battaglia per la BCE come la vedi tu, Adriana? La battaglia della BCE, diciamo che teoricamente non doveva svolgersi, non dovrebbe svolgersi in questo momento, perché va a intrecciarsi necessariamente con il problema greco, ma soprattutto con quello che il problema greco si può portare dietro, perché la Grecia in sé in fondo è una piccola cosa per l'euro. Weber è sicuramente ritenuto un rigido e non c'è dubbio che se sarà Weber e il cancelliere Merkel pare che voglia Weber, la gestione diventerà una gestione molto più dottrinaria, molto più alla Jürgen Stark, che non avrebbe mai voluto, per esempio, far entrare i paesi famosi del Club Med, noi compresi, l'Unione Monetaria. Penso che non sarebbe la persona adatta a questo momento, perché in questo momento mi sembra che il governo della BCE dovrebbe avere certo l'indipendenza, ma anche una certa flessibilità, che è quella che ha dimostrato anche la BCE nella gestione della crisi finanziaria e nell'approccio che in questi giorni, appunto. Quindi avere un uomo rigido non credo che sarebbe la cosa. Draghi ha delle chance, è difficile dirlo, ma io non vedrei tanto il problema. Il governo, diciamo, gli sta dietro o non gli sta dietro. Draghi è un uomo che ha una reputazione indipendentemente dal governo a cui appartiene e dal paese a cui appartiene. Quindi, secondo me, la candidatura Draghi tipicamente potrebbe anche volare da sola. Beh, è quello che vedremo. Il problema è che è un po' difficile che possa volare se i tedeschi, come dal documento riservato pubblicato alla stampa ieri, danno istruzioni formali ai loro uomini a Bruxelles di segarlo a tutti i costi. Perché il documento ha posto in imbarazzo anche la cancelleria ieri, che ne ha smentito l'esistenza, però alla stampa i colleghi ce l'hanno in mano. Io ho visto anche le copie, per così dire. Eccoci tornati in studio, puntata un po' problematizzata dal fatto che i telefoni non funzionano. Due domande, se che per il professor Francesco Forte, nella speranza che sia ancora in linea. Sì, è in linea Forte? Sì. Sì, sì. Ecco, due domande secche. Primo, ieri Berlusconi ha posto il problema delle pensioni un po' in tutta Europa. Ha proposto che, insomma, si alzi l'età pensionabile con una misura che concordata abbia in questo anche un minore impatto sui sindacati di diversi paesi, però ha posto il problema. Prima domanda, cosa ne pensa? Seconda domanda, ma in definitiva, che cosa ci sarebbe di male, visto che il trattato non prevede questo meccanismo degli aiuti, anzi quasi li impedisce, andare dal Fondo Monetario Internazionale per i paesi che si devono impegnare da soli, come ha detto lei, perché dice la Grecia ci deve pensare da sola, va al Fondo Monetario e prendiamo atto che questo è un non problema per l'Europa. Che cosa c'è di male nell'intervento del Fondo, che alcuni vedono come una resa dell'Europa? Ecco, queste due domande. Beh, la prima domanda, Berlusconi ha perfettamente ragione, meno male che l'ha detto, perché è chiaro che anche per noi l'alzare l'età pensionabile è essenziale, non solo per un'ovvia esigenza demografica, ma perché c'è il debito pensionistico. Il debito pensionistico è una parte nascosta di debito pubblico e quindi per combattere il rischio del debito questo è essenziale. E circa la seconda domanda, diciamo che se al Fondo Monetario Internazionale ricorre la Grecia non c'è nessun problema, perché è un paese piccolo, non ha significato per l'area monetaria europea, il suo debito è una quota molto piccola. Se ci ricorresse un grosso paese, allora vorrebbe dire che l'Unione Monetaria non ha una banca centrale in grado di imporre, mediante restrizioni e disciplina, una propria, diciamo, analoga funzione, e quindi sarebbe la crisi dell'euro. La domanda che le faccio è: Spagna sarebbe considerato un grande paese? Ecco, questa è la domanda più difficile, perché la Spagna è intermedia. Secondo me non sarebbe considerata un grande paese per il fatto che, in effetti, a parte che non è uno dei paesi storici dell'Unione Europea, tutto sommato non fa parte dei grandi paesi intesi come struttura industriale dell'Unione Europea e i grandi paesi dell'Unione. Non a caso, perché in fondo il debito spagnolo è il più basso di tutti i paesi dell'Unione Europea, però è colpita dalla crisi. Quello pubblico, perché quello privato è elevatissimo, quello privato è lo scoperto di immobiliare delle casse di risparmio elevatissimo. Che indica che è una cosa strana, beh, vuol dire che la Spagna è anomala, perché la Gran Bretagna, che pure ha un debito privato basso, che però ha grandi imprese industriali e grande tecnologia, e ha un debito pubblico superiore a quello della Spagna, non fa parte nemmeno dell'area dell'euro, però diciamo non è un'ultima venuta. Professore, senta una domanda, perché moltissimi ascoltatori, l'unica cosa che arrivano sono gli sms in questo momento, dicono: ma non ci conveniva, domanda un po', diciamo, ogni paese porta la forza laddove la tradizione e la debolezza della sua tradizione induce a mettere la posta sul tavolo. Molti si chiedono: ma invece che stare in un paese che ci obbliga a deflazionare, e con la Germania, paese leader, che è il nostro più grande concorrente sui mercati internazionali, non ci conveniva stare, insomma, in una fascia oscillazione non così secca, non con l'euro, e poter svalutare e a questo punto guardare da lontano tutte queste difficoltà? Molti si chiedono, in questi momenti in cui il mercato ha capito che la somma del debito si fa con il debito pubblico, ma anche privato, quello bancario, quello delle imprese non finanziarie, e siamo messi meglio degli altri, avessimo una possibilità, stando fuori, di svalutare un pochino e fare vera concorrenza ai tedeschi che ci soffocano, male non sarebbe. Lei che risponde a questi? No, questo è completamente sbagliato, perché svalutare è un rimedio effimero al sistema di rigidità e di, chiamiamole, concessioni reciproche illusorie con cui si vive prima di svalutare. Cioè, è evidente che l'Italia, dopo anni di fatica nell'euro, è diventata competitiva. Basta guardare la nostra bilancia dei pagamenti correnti anche in questo periodo, e comunque l'euro risente di tutti i paesi, compresa l'Italia, che ne è una quota grossa, e sta scendendo, come è noto, il suo cambio in modo, chiamiamo, realistico, riflettendo le sue difficoltà, e quindi l'euro si sta svalutando da sé. Ecco, quindi da questo punto di vista, infatti, la previsione è di un ulteriore margine fino a 10%, insomma dopo il 10% di queste settimane, che questo aiuta i nostri prodotti in esportazione. La domanda per Antonio Ferrari è: in Grecia invece esistono dubbi sul fatto di aver avuto questo scudo in questi anni, che ha costituito un abbassamento naturalmente del premio da pagare per il debito pubblico? C'è chi ci ripensa, o c'è invece una maggioritaria porzione che dire: vabbè, stringiamo la cinghia e facciamocela in qualche modo? Ma io credo che la Grecia, nonostante avesse la moneta più antica dell'Unione, la dracma, c'era addirittura ai tempi di Gesù Cristo la dracma, la Grecia ha sposato l'euro con un particolare entusiasmo, nonostante ci fossero prima appunto delle resistenze proprio nazionalistiche nel senso della difesa della dracma. Quindi, per carità, nessuno vuole marcia indietro o tornare alla valuta precedente, alla valuta nazionale, perché questo significherebbe veramente il crollo di tutto quell'edificio che in Grecia qualcuno ha cercato di costruire nonostante molte diffidenze. Mi riferisco in particolare all'ex primo ministro Simitis, che è stato lui che ha voluto questa adesione immediata. È chiaro che oggi io credo che la volontà di stringere la cinghia ci sia, e il problema è quello di evitare quei percorsi confusi. Mi sembra che tu prima parlassi appunto di quel famoso sarebbe di quell'articolo 103 che dice, esatto, e non dice. Mi viene in mente un paragone con altre questioni che riguardano certe risoluzioni dell'ONU, per esempio anche quella sul conflitto israeliano-palestinese, dove la versione francese dice una cosa. Non c'è dubbio. E la mia opinione, guarda, è molto semplice: che un'Europa associata solo all'obbligo di deflazionare per i paesi i cui politici hanno sbagliato è un'Europa che diventerà sempre più impopolare in quei paesi che dovranno farlo. E quindi bisogna spiegare ai sindacati, ai dipendenti, che bisogna convergere verso una maniera di costo del lavoro più produttivo. Anche questo è molto tosto farlo nella crisi, quando ci sono milioni di posti di lavoro a rischio. Quindi questa Europa, secondo me, è un'Europa in cui i politici hanno sbagliato troppo. Comunque vedremo all'Ecofin all'inizio della settimana che cosa i greci chiederanno davvero, che cosa verrà loro risposto. Scusate per la puntata di oggi un po' devastata dai telefoni, grazie in regia a Pietro Lacorte e come sempre redazione Alessandro Marco Tulli. Però alle 12 non perdetevi Salva Danaio, perché Deborah Losciani tornerà sulle conseguenze sui mercati esattamente del vertice europeo di ieri. Alle 12 appuntamento con Deborah, per quello che ci riguarda appuntamento lunedì.